Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati in Nessun Luogo Lontano. Sono le 19:16 in questo esatto istante. La buona serata vi arriva anche da Laura Fagin, Nadia Zammiti che sono in redazione e da Fabio Cantadori che è in regia. L'avete sentito al GR, notizie roventi che arrivano come sempre dalla Siria e dal Medio Oriente in generale, ma io questa sera vi propongo una riflessione tutta europea e allora oggi, a Nessun Luogo Lontano, andiamo in Scozia. Frankly, I'm sad that we are even having this debate because I support the United Kingdom so strongly, but we have to respect the fact that Scotland voted for a separatist party. E la voce che sentite è quella del premier inglese David Cameron, che dice: devo ammettere che insomma la decisione spetta agli scozzesi. Sentite anche la voce dell'omologo scozzese Salmond, perché la notizia qual è? Bene, che lunedì scorso Salmond e Cameron hanno finalmente raggiunto un accordo dopo un infuocato anno dal punto di vista politico, in cui il partito nazionalista scozzese chiedeva il referendum. Ebbene, il referendum per l'indipendenza della Scozia si farà entro l'autunno del 2014. E sono fondamentalmente due le domande a cui tenteremo di dare una risposta questa sera a Nessun Luogo Lontano. La prima, se appunto la Scozia diventerà indipendente o meno nel 2014. Sondaggisti e bookmaker nella più tipica tradizione anglosassone sono ovviamente al lavoro, poi vi darò anche i numeri. La seconda domanda è questa: potrebbe diventare l'indipendenza scozzese un precedente? Stiamo pensando ai casi, ad esempio, che potrebbero seguire l'indipendenza della Scozia. Pensiamo alla Catalogna, pensiamo alle Fiandre, pensiamo anche all'indipendentismo, corso, che anche con una certa violenza negli ultimi anni ha fatto sentire la propria voce. E allora non solo che Regno Unito, o meglio disunito, ci aspetta, ma anche che Europa ci aspetta, forse più frammentata, più polverizzata, e quindi sarà più forte o più debole? Vi invito a commentare anche questi aspetti. Ci trovate su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter Nessun Luogo 24, oppure commenti e domande via mail nessunluogo@radio24.it oppure sms al 349-238-6666. Tra l'altro vi ricordo che proprio questa sera alle 21:30 all'interno di La Storia e la Memoria qui su Radio 24 andrà in onda un radiodocumentario prodotto insieme a History Channel, Braveheart, la vera storia, in qualche modo un'operazione filologica, se vogliamo, proprio su questa questione. Dicevo, 2014, autunno, il referendum che permetterà agli scozzesi di scegliere per l'indipendenza della propria nazione. Negli ultimi mesi in effetti la politica interna a Edimburgo è stata monopolizzata da due semplici parole: sì, Scozia. Yes Scotland è lo slogan della massiccia campagna politica intrapresa dal Partito Nazionalista Scozzese per spingere verso l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. La campagna è iniziata nel maggio 2011, da quando cioè il Partito Nazionalista, guidato da Alex Salmond, ha ottenuto la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento scozzese e Salmond è diventato il capo del governo. Le trattative e i negoziati tra Londra ed Edimburgo sono andate avanti per mesi, finché il 15 ottobre 2012 i due primi ministri Cameron e Salmond hanno firmato un accordo che concede al governo della Scozia la facoltà di indire un referendum sulla propria indipendenza. Secondo l'accordo, il governo di Edimburgo avrà la facoltà di decidere la data del voto, che dovrà tenersi entro l'autunno del 2014, e chi potrà votare. In cambio, ha dovuto cedere alla sua richiesta di introdurre due quesiti: uno sull'indipendenza e l'altro su una forma di autonomia fiscale radicale, il cosiddetto Devo-Max, restando però all'interno del Commonwealth. Il quesito referendario sarà unico e semplice: sei d'accordo che la Scozia debba essere una nazione indipendente? Di fatto, però, anche in caso di vittoria del sì, la Scozia rimarrebbe all'interno del Commonwealth e il capo di Stato rimarrebbe comunque la regina Elisabetta II, come sancito dall'Atto d'Unione del 1707. Al momento, il Parlamento scozzese ha competenza legislativa su tutte le politiche che riguardano giustizia, istruzione, sanità, tasse locali, trasporti, ambiente e ordine pubblico. A Londra rimane competenza esclusiva per la politica estera e di difesa. La ripresa del nazionalismo scozzese risale al 1989, quando Margaret Thatcher introdusse la tassa Community Charge, meglio nota come Poll Tax, introdotta in Scozia con un anno d'anticipo rispetto al resto del Regno Unito, provocando forti proteste nei confronti di Londra. Con un precedente referendum del 1997, la Scozia chiese più poteri per il governo di Edimburgo, poteri che arrivarono con lo Scotland Act del 1998, che attualmente regola i rapporti tra le amministrazioni scozzesi ed il governo del Regno Unito. Il 2014 rappresenta una data particolarmente simbolica per i nazionalisti scozzesi. Ricorreranno infatti i 700 anni dalla battaglia di Bannockburn, durante la prima guerra di indipendenza scozzese. Un successo che consentì la temporanea restaurazione dell'indipendenza, proclamata formalmente con la firma del Trattato di Edimburgo-Northampton del 1328 e la nomina di Robert Bruce a re di Scozia. Questa è la situazione attuale della Scozia all'interno del Regno Unito. Vi dicevo dei numeri, secondo gli ultimissimi sondaggi però solo il 30 o al massimo il 40% degli scozzesi vorrebbe l'indipendenza, però nella politica Edimburgo non solo qualcosa si muove. Pochi giorni fa, ad esempio, i Verdi, guidati da Patrick Harvey, hanno annunciato che appoggeranno il sì. Loro in realtà cercheranno di portare avanti politiche ecologiste, quindi faranno una loro campagna per l'indipendenza, però come si vede questo quesito, fra l'altro devono essere due i quesiti, avete sentito, ma ridotto a uno, questo quesito ebbene sta muovendo la vita sociale e politica. Come voteranno gli scozzesi a Edimburgo e a Glasgow? Ebbene, vi propongo un mini sondaggio che abbiamo realizzato noi con alcune voci appunto da Glasgow e da Edimburgo, e come ascolterete le opinioni sono ben ripartite fra i sì e i no. Very difficult to say, but I don't see any reason why it shouldn't. È davvero difficile rispondere, ma non vedo alcun motivo per cui la Scozia non dovrebbe essere indipendente. Molti altri piccoli stati come Lettonia o Lituania lo sono diventati. E perché non noi? Secondo me, non credo che la Scozia possa beneficiare in alcun modo della separazione del Regno Unito. Al momento il governo scozzese sta soffrendo difficoltà finanziarie e non credo avremo il budget per sostenere la nostra indipendenza. Perciò credo che dovremmo restare all'interno del Regno Unito. Sono molto favorevole all'indipendenza della Scozia e del Regno Unito. Penso che potremmo fare molto bene da soli e credo che sia un cambiamento molto positivo per noi. Beh, personalmente io vengo dall'Irlanda del Nord. Perciò non mi interessa molto la questione, ad essere sincero. Ma conosco molte persone nella zona e direi che è un bel 50-50 al momento. Molti sperano che accada e molti no. Sono d'accordo, nel senso che alla Scozia deve essere concesso il diritto di provare. Non sono convinto necessariamente che l'indipendenza funzionerà, ma credo che ci si debba dare la chance di provare. Beh, il problema è la perdita del petrolio. Se questo fosse accaduto 25 anni fa, la storia sarebbe stata diversa. Ma dal punto di vista culturale, penso ci sia bisogno dell'indipendenza. A livello finanziario, invece, non credo siamo in grado di permettercela. E già si è toccato uno dei punti cardine di quella che potrebbe essere la futura indipendenza scozzese, che è il mare di petrolio, il petrolio dei mari del nord, ma su questo punto poi ci andiamo un pochino più a fondo, e poi la questione finanziaria, perché l'indipendenza scozzese significherebbe necessariamente anche l'accollo di parte del debito piuttosto corposo. Ci si domanda quanto le finanze scozzesi possano poi tamponare questa parte di debito pubblico. La Bank of Scotland non gode certo di buona salute, quindi insomma un panorama piuttosto complesso, con tanti chiaroscuri che cercheremo di illuminare, e lo facciamo grazie a Giancarlo Rinaldi, che è giornalista per BBC Scotland Online, che è in collegamento con noi da Dumfries, che è una cittadina scozzese a sud, al confine con l'Inghilterra. Giancarlo, buonasera. Buonasera, buonasera. Giancarlo, benvenuto a Nessun Luogo è Lontano. La prima domanda è: che aria tira lì a Dumfries? Quanto si sente questa questione così, così fresca e così datata allo stesso tempo dell'indipendenza? Ma adesso si sente abbastanza, credo. Prima forse un po' meno, ma adesso che abbiamo la data e sappiamo la domanda, mi sembra che la gente sia più coinvolta adesso. E poi, essendo al sud della Scozia, credo che sia ancora più importante, perché ci sono già tanti legami con l'Inghilterra, c'è tanto commercio tra le due nazioni, e quindi credo che adesso sia molto più sentita. Negli ultimi giorni la gente parla molto dell'indipendenza e del referendum. Ecco, quanto poi questa si potrà avverare di qui a 2 anni, all'autunno del 2014? Come dire, i bookmaker ci stanno provando a dare le quote. Quello che ci stiamo chiedendo nella trasmissione di questa sera è se e quanto poi l'esempio dell'indipendenza scozzese potrà fare da traino in qualche modo ad altri indipendentismi, altre autonomie, spinte autonomistiche in tutta Europa e non solo. Ho invitato gli ascoltatori a digitare al 349-238-6666 i loro commenti, e ne sono già arrivati almeno 3 o 4, tutti su Sardegna e Corsica, indipendenti e federati in una sola nazione. Questo uno su tutti. Vi invito ancora a commentare se secondo voi un'Europa più polverizzata, più atomizzata, se mi passate il termine, sarà poi più debole o più forte, quindi più autonomismi, più regionalità, se volete, più nazioni indipendenti dentro l'Europa la renderanno più debole o più forte. E dentro l'autunno del 2014 gli scozzesi potranno decidere sull'indipendenza o meno della Scozia. Sarà un precedente in qualche modo per un'Europa che è in continuo cambiamento? Al 349-238-6666 arrivano i primi messaggi, tutti molto concentrati, devo dire, sull'Italia. Si parla anche dell'indipendenza del Veneto, mi si dice: ma le sembrerà sconveniente accennare al Veneto che in un consiglio regionale straordinario delibererà sul referendum per l'indipendenza d'Italia? No, certo che no, notizia riportata dai giornali, se non erro entro 7-8 giorni il consiglio regionale del Veneto farà una seduta straordinaria voluta da parecchi consiglieri, più di 40 su una sessantina, e discuterà questa risoluzione presentata dal Movimento Indipendenza Veneta, che appunto dovrà pronunciarsi sulla possibilità di un Veneto indipendente. Nuovi nazionalismi o regionalismi in questo caso, che futuro attende l'Europa, più debole o più forte in questo caso, dando voce, linfa e autonomia a queste spinte? Ma torniamo al caso scozzese, e torniamo proprio in Scozia. Lo facciamo grazie a Giancarlo Rinaldi, che è in collegamento con noi da Dumfries. Giancarlo è un collega di BBC Scotland. Giancarlo, buonasera nuovamente. Dicevi, la questione dell'indipendenza viene via via più sentita, nel senso che ormai la questione è calda, è un annetto che se ne discute in maniera un po' più pragmatica, ma oramai è proprio sul tavolo. Quanto la questione petrolifera è portata nelle chiacchiere, nelle discussioni? Quanto gli scozzesi, come dire, percepiscono l'importanza del mare di petrolio, del mare del nord? Ma questo è una parte molto importante del dibattito. La questione economica è molto importante, è molto sentita dalla gente, perché ogni settimana esce uno studio nuovo con ulteriori informazioni, uno che dice che la Scozia dà di più all'Inghilterra, e la settimana prossima esce un altro che dice che l'Inghilterra che paga per gli scozzesi. E quindi la domanda sul petrolio è molto importante, perché se vogliamo l'indipendenza e la gente vuole sapere che sia possibile economicamente, vogliono essere sicuri di avere soldi in tasca, e di sicuro il petrolio è una parte molto importante di quel dibattito. Ecco, quanto la questione politica, al di là del fattore identitario certamente forte, quanto questa questione ruoti attorno a un mare di oro nero, ce lo spiega Sissi Bellomo, che è esperta di finanza, mercati e materie prime del Sole 24 Ore. Beh, le risorse di petrolio e di gas del Mare del Nord sono da sempre una delle istanze maggiori degli indipendentisti scozzesi, fin da quando praticamente il petrolio fu trovato nel Mare del Nord nel 1966, già i primi movimenti indipendentisti degli anni 70 reclamavano il petrolio scozzese, ridate il petrolio alla Scozia, era uno degli slogan da sempre, e adesso anche è ovvio che sia una questione centrale in vista del referendum che potrebbe portare a una separazione, a un'indipendenza della Scozia dal resto della Gran Bretagna. Sono istanze che hanno effettivamente un grande fondamento, perché a seconda di come vengono calcolate le acque territoriali, parliamo di acque territoriali, ma non essendo la Scozia uno Stato non se ne può parlare in maniera propria. Ci sono comunque dei confini definiti per la pesca. Ebbene, utilizzando questi confini delle acque scozzesi risulta che circa il 90% dei giacimenti di gas e di petrolio della Gran Bretagna sono di pertinenza della Scozia. Sarebbe effettivamente un ricco premio per l'indipendenza, ammesso che Londra davvero insomma si piegasse facilmente a cedere tutta la ricchezza di petrolio e gas. È una ricchezza che è in declino, è da molti anni ormai i giacimenti di quell'area producono sempre meno, l'anno scorso c'è stato un ribasso particolarmente marcato della produzione perché hanno avuto dei problemi nei giacimenti, stiamo parlando quindi tra petrolio e gas di 650 milioni di barili per il 2011, che è circa il 20% in meno di quanto avevano prodotto l'anno precedente. Si parla di un anno eccezionale, ma comunque è dal 2004 che la produzione declina in media del 7,5% l'anno. È vero che si sono intensificate molto le esplorazioni e che quindi in prospettiva potrebbe anche esserci qualche sorprese ne abbiamo viste negli ultimi anni in altre aree del Mare del Nord, in Norvegia, dove si pensava che non ci fossero più giacimenti sfruttabili, invece hanno ritrovato recentissimamente delle nuove risorse. Anche così, insomma, ci sono prospettive comunque per avere una produzione per almeno una trentina d'anni, secondo gli esperti ancora. La Scozia ha delle risorse importanti non solo per quanto riguarda gli idrocarburi, perché in acque scozzesi si trova anche un consistente parco eolico, insomma ci sono pale eoliche che riescono ad alimentare centrali con cui la Scozia esporta energia elettrica verso il resto della Gran Bretagna, ci sono impianti alimentati con le correnti marine, per cui in generale in campo energetico la Scozia ha buone probabilità sia di avere introiti che sostengano lo Stato, sia in termini di tasse, di royalties e quant'altro, sia non solo con il petrolio ma anche con altre forme di energia. Gli esperti concordano abbastanza sul fatto che la Scozia indipendente avrebbe delle risorse se non in grado di darle addirittura un surplus di bilancio, comunque quantomeno di garantirle un dignitoso andamento delle entrate statali. Solo per il petrolio si calcola che siano circa 4,4 miliardi di euro l'anno, insomma il valore delle estrazioni di gas e petrolio. Se pensiamo che un 90% di questo può essere appannaggio della Scozia, in effetti stiamo parlando di cifre abbastanza elevate. E quanto queste spinte nazionalistiche sono poi frutto, come stiamo capendo, di tensioni, di motori economici, e qui l'oro nero vale parecchio, non lo solo, lo avete sentito dalle parole di Sissi Bellomo, esperta di materie prime del Sole 24 Ore. Intanto al 349-238-6666 sono parecchi gli sms, anche dal tono un po' provocatorio, c'è chi dice, come Beppe d'Aguastalla, facciamo cambio, diventiamo noi italiani sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta se gli scozzesi vogliono l'indipendenza. Ancora Luca da Torino, se si vuole l'Europa non si possono tenere le nazioni, quindi vanno polverizzate. Quanto può reggere l'identità europea con una continua frammentazione, con una continua spinta autonomistica, di nazioni molto piccole, perché poi la Scozia, che è vero ha una sua identità molto forte, assolutamente, sono poi 5 milioni di abitanti. Torniamo lì, torniamo in Scozia, torniamo a Dumfries, al confine, con Gianluca Rinaldi, a cui volevo rivolgere la mia ultima domanda, che è questa. Abbiamo detto, dai sondaggi si capisce che c'è una bella fetta di indecisi, di scozzesi che ancora non sanno per chi voteranno, e su questi immagino che la campagna del Partito Nazionalista Scozzese si concentrerà, Giancarlo. Devono per forza convincere, diciamo che una quindicina o 20% della popolazione non sa come votare, e devono concentrare su di loro, perché al momento il voto no viaggia sul 50%, anche ancora un po' di più, e quelli che voterebbero di sì sono più o meno 30-35%, quindi lavoro c'è da fare, e i nazionalisti, infatti oggi Salmond ha parlato di questo, e stanno cercando di convincere quelle persone che soprattutto dal punto di vista economico, che avrebbero una vita migliore in una Scozia indipendente, ma credo che ci sia tanto lavoro da fare per convincerli, perché come ho detto c'è tanta gente che non sarà mai convinta, e anche quelli che rimangono, il 15-20% che non hanno ancora deciso, anche loro saranno difficili da convincere, perché hanno un po' paura, credo, dell'indipendenza e di trovarsi in una condizione molto peggiore di quello attuale. Ecco, Giancarlo, un ultimo punto che volevo toccare prima di salutarti e lasciarti al tuo lavoro è questo, che a essere maliziosi, analizzare le questioni politiche, abbiamo capito che devono essere due le questioni, due le domande nel referendum. Una riguardava l'indipendenza tout court vera e propria, l'altra una devolution dei poteri, come in parte è già stato fatto, ma era una delle ipotesi sul tavolo, ancora più poteri, più autonomia, ma senza indipendenza, appunto, alla Scozia. Allora, questa devolution, il fatto di portare avanti questa, in maniera così forte, questa campagna per l'indipendenza, potrebbe essere una leva politica, un grimaldello, un mettere sul piatto della bilancia qualcosa con Londra e dire attenzione, perché qui veramente rischiamo di diventare indipendenti, fateci qualche concessione in più, ritorniamo all'ipotesi della devolution e poi magari, insomma, se ne riparla. Questo è possibile, cioè non è da escludere, perché se arriviamo tra due anni e il voto è anche negativo, cioè la gente non vuole l'indipendenza, ma si va vicino all'indipendenza, 55-45 o qualcosa del genere, allora darebbe ancora un po' di potere ai nazionalisti per dire che c'è tanta gente che vuole l'indipendenza e devono dare ancora di più alla Scozia. Se invece è più netto il risultato, penso che le cose rimarranno come sono, col Parlamento, con dei poteri, ma non i poteri aggiuntivi che volevano. Quindi vedremo, ma se il risultato è vicino, allora si potrebbe vedere quello, penso. E questo fa parte, come dire, del gioco politico. Lo seguiremo, noi di Nessun Luogo è lontano. Intanto ti ringraziamo, Giancarlo Rinaldi, giornalista per BBC Scotland Online, per questa tua testimonianza e questa fotografia della questione scozzese. Buona serata, buon lavoro. Grazie, buonasera. Autunno 2014, 5 milioni e passa di scozzesi potrebbero dire addio alla regina d'Inghilterra, non far più parte del Regno Unito, acquisire quell'indipendenza che da tanti secoli si cercava, celebrata anche in vari film. Anche personalità del mondo dello spettacolo hanno preso, come dire, posizione in maniera anche vivace e forte. Basti ricordare l'attore Sean Connery su tutti per quella che è appunto la causa scozzese. Adesso siamo a un punto di svolta importante. Lunedì scorso i due premier Salmond e Cameron si sono detti d'accordo, hanno firmato questo storico accordo e questo referendum si farà. Ma questo referendum, una possibile indipendenza della Scozia potrebbe essere il prodromo, potrebbe essere un precedente per un'Europa più frammentata. E quindi che tipo di Europa ci aspetta? Giro immediatamente questa domanda al professor Pietro Grilli di Cortona, docente di scienza politica presso l'Università di Roma 3. Professore, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera. Allora, se nel 2014 i sondaggi che abbiamo detto venissero smentiti e la Scozia divenisse indipendente, sarebbe un precedente importante. Quanto preoccupa questa cosa? Quanto potrebbe rendere l'Europa più debole? Ma intanto una eventuale indipendenza scozzese sarebbe stata già preceduta da altri eventi altrettanto rilevanti sotto questo profilo. Basti pensare a quello che è successo in Europa centro-orientale agli inizi degli anni 90, quindi l'indipendenza della Slovacchia, della Repubblica Ceca, la frantumazione della Repubblica Federale di Tito, quindi esempi di questo tipo ce ne sono già stati. Il caso della Scozia sarebbe un ulteriore, come dire, un ulteriore elemento in questa direzione. Abbastanza preoccupante peraltro, perché naturalmente il principio di autodeterminazione è un principio considerato sacro ed è stato un potente motore nella storia del Novecento, come sappiamo, alla base della formazione di tanti stati che oggi sono diventati quasi 200 nel mondo, però diciamo che è un motore che fa rumore di ferraglia oggi, cioè è un qualcosa di anacronistico. La crescente globalizzazione dei processi economici, finanziari, politici mette ai margini le piccole patrie. Le piccole patrie diventano ancora più anacronistiche. Il mondo dovrebbe andare in una direzione completamente diversa, cioè quella di un coordinamento e di una integrazione sovrastatale, ma non di polverizzazione degli stati. Ecco, quindi professore, una simile eventualità come una iattura proprio nello stesso processo di integrazione europea. Ecco, segue in qualche modo le sue orme un'ascoltatrice che al 349-238-6666 commenta sarcastica: separando regioni per regioni, province, paesi, quartieri, vie, arriveremo al pianerottolo. Così si firma con tono amaro Anna. Al momento, oltre alla questione scozzese, in Europa si dibatte su altri due casi che sono piuttosto caldi. Uno è quello della Catalogna e l'altro è quello delle Fiandre. Esiste un filo rosso, secondo lei, che lega queste tre rivendicazioni? Ma sicuramente c'è una spinta che deriva dalle identità culturali. Le identità culturali sono forti. Ci sono forti identità autonome nel caso delle Fiandre all'interno del Belgio, nel caso della Catalogna all'interno del Regno di Spagna, quindi certamente c'è un elemento in comune che è questo. Diciamo che oggi a questo elemento si sono aggiunti aspetti economici, anzi forse non solo oggi. Il problema per esempio del petrolio della Scozia è un problema che risale almeno agli anni 70, quando quel petrolio fu scoperto, e infatti da lì poi rinacquero tutta una serie, si rialimentarono tutta una serie di istanze nazionalistiche in Scozia. Oggi la questione economica batte sotto altre spinte, diciamo, nel senso che queste regioni sono molto indebitate. La Scozia, la Catalogna è fortemente indebitata. La Scozia, io ho letto da qualche parte che ha un debito pubblico, ma non so se è una cifra giusta, di addirittura 80 miliardi di sterline. È chiaro che con una situazione di questo tipo le regioni, le entità substatali cercano di rinegoziare con gli stati la loro situazione. Nel caso della Scozia, la devolution, probabilmente anche per ottenere qualcosa di più, qualche aiuto in più. Però vorrei aggiungere che una volta che queste regioni diventano autonome e indipendenti, la situazione peggiora. Io non sono un economista, ma non ci sono i margini per un miglioramento. Sì, nel senso, nel caso della Scozia si riappropriano completamente o quasi completamente del petrolio che hanno, ma a parte il fatto che, da quanto so, il petrolio è in forte calo di produzione. E infatti l'abbiamo sentito anche dall'esperto del Sole 24 Ore, diceva, insomma, nei prossimi vent'anni. Nel medio periodo darci un pugno di mosche in mano, ma poi finché sono all'interno del Regno Unito, diciamo che la Scozia può puntare sugli aiuti di Londra. Una volta che diventa indipendente. Cioè, quanto è vero, quanto è vero. Londra alla fine, insomma, vede e provvede, insomma, lo stato sociale. Ma è successo sempre così, britannico. È successo in Germania, sta succedendo in Italia, voglio dire. Le regioni indebitate più in crisi economica vengano aiutate dallo Stato. Fra l'altro, verso l'indipendenza questo aiuto viene meno. Fra l'altro, si dovrebbe, lo dicevo a inizio trasmissione, la Scozia accollarsi parte del debito pubblico britannico, si parla addirittura, se non erro, di 300 miliardi, e poi ci sarebbe il problema della moneta, perché Salmond si è detto favorevole alla sterlina, al mantenimento della sterlina, però è anche vero che chi è un nuovo Stato che entra in Maastricht dovrebbe necessariamente adottare l'euro, quindi anche lì, insomma, c'è un piccolo punto di domanda. Professor Ghilli, siamo quasi in chiusura, le chiedo una risposta telegrafica, quasi uno slogan su questa domanda, se mi è concesso. Piccolo e autonomo è bello, e se sì, cosa si può cambiare? Come si può frenare, diciamo, questa forza centrifuga che dal suo punto di vista è deleteria? Telegrafico su questo. Guardi, si può tentare di fermare valorizzando le autonomie culturali locali. Questo già lo si sta facendo, per esempio in certi altri paesi, penso alla Finlandia con la minoranza svedese. Pensare a un'autonomia e a un'indipendenza politica ed economica è anacronistico. Grazie, allora la cultura come risposta alle istanze autonomistiche, non solo appunto l'economia, perché da quelle parti un po' si scricchiola. Grazie al professor Ghilli da Cortona per essere stato con noi. Il grazie va anche a Nadia Zammitti, Laura Faggini in redazione, Fabio Cantadori che ha dato musica e ritmo a questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ringrazio voi, gentili ascoltatori, per essere rimasti all'ascolto. Noi ci risentiamo sabato prossimo 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.